1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari italiani, carissimi tutti, debosciati miei, era da un po' che non ve lo dicevo, alle 7:18 minuti, forza, forza che c'è da produrre anche oggi, velocizzatevi, dai con lo schema Allegri a palla e attendiamo qui Oscar Giannino dalle 8:15, minuto più, minuto meno. Parleremo ovviamente di quello che succede in Lombardia, avremo Gerardo Colombo, ex magistrato, ex del pool Mani Pulite, milanese doc. In Lombardia hanno arrestato il vice presidente Mantovani, ma ci sono anche indagati, grande polemica sulle manette facili, accusa qualcuno, sulle invece nuove accuse di corruzione, guarda caso nell'ambito della sanità, dice qualcun altro, e insomma sui giornali questo è uno dei temi che è più affrontato, ma non c'è solo questo sui giornali che andiamo a sfogliare. È mercoledì 14 ottobre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore torna sull'effetto Volkswagen, crolla la fiducia tedesca, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Corriere della Sera, sì al nuovo Senato con 179 favorevoli, proteste in aula. Senato addio tra le proteste è il titolo anche di Repubblica. Mentre il nuovo Senato di Renzi è per il secolo XIX. Il giornale invece nasce il Senato Papocchio. Il manifesto funerale di Stato la mette giù pesante per questa approvazione del nuovo Senato. L'Unità, c'era una volta il Senato, titolo di prima pagina. Mentre Avvenire, cambio di carta, si riferisce ovviamente alla carta costituzionale. Cambia il Senato, meno poteri, è il titolo anche del Messaggero. Ieri l'approvazione definitiva. Mentre Libero, PM già in campagna elettorale. Le manette in Lombardia. Così il giorno, Lombardia shock tangenti. La Stampa invece ha il titolo di prima pagina dedicato a, lo leggo dopo quello del Fatto, perché così parto proprio da lì. Il Fatto Quotidiano ha sempre su il Senato i compagni Napolitano e Verdini fanno la festa alla Costituzione. Questo è il titolo di prima pagina. Ma appunto la Stampa, contanti, tetto a 3.000 euro. È una delle notizie certamente più sviluppate dai giornali, perché l'annuncio del presidente del Consiglio Matteo Renzi che nella stabilità ci sarà il limite dell'utilizzo del contante che salirà da 1.000 euro che era stato messo da Monti, per la verità credo a 999,99 euro, salirà a 3.000 euro, conferma di Renzi. Uso del contante, il tetto sale a 3.000 euro. Intanto vi segnalo Carmine Fotina e Marco Mobili sul Sole 24 Ore a pagina 5 raccontano i limiti ai pagamenti in contante e il raffronto con gli altri paesi, per dire ne prendono tre, Spagna, Francia e Germania. La Francia, pensate, proprio da pochissimo ridotto la soglia dell'utilizzo del contante, quindi noi andiamo in controtendenza rispetto alla Francia. In Francia era 3.000 euro, è stato abbassato a 1.000. La Spagna ha una soglia di utilizzo del contante 2.500. In Germania non tutti gli stati prevedono limiti all'utilizzo del contante nei pagamenti. Comunque l'Italia dunque va a 3.000 euro, alzata la soglia dell'utilizzo del contante. Ovviamente le polemiche, provvedimento di destra, dicono a destra, dice anche Alfano, e in questo c'è un po', devo dire, l'imbarazzo dei giornali più orientati al centrodestra, sia Libero sia il Giornale, che in questo non possono criticare Renzi, visto che è una battaglia berlusconiana, diciamo così, la battaglia del contante, che invece vede la minoranza del PD, i Bersani, a dire no, così c'è più evasione, c'è più corruzione. C'è un'intervista al Corriere della Sera a Vincenzo Visco, ex ministro delle finanze, che è intervistato da Francesco Di Frischia, a pagina 15 dice: quando ho letto la proposta mi sono chiesto, ma è uno scherzo oppure una provocazione? In un paese con la più grande evasione fiscale d'Europa, esclusa la Grecia, un paese dove l'uso del contante è più del doppio rispetto alle altre nazioni europee e la malavita organizzata è diffusissima, mi sembra questo un provvedimento autolesionistico che facilita soprattutto il riciclaggio oltre all'evasione fiscale. Così la vede Visco. Le critiche a Renzi effettivamente arrivano più da sinistra. Per la verità, racconta Repubblica, le critiche arrivano anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, non in modo formale, più in modo sotterraneo, ma Valentina Conte scrive un bell'articolo tra pagina 14 e 15 di Repubblica dal titolo Agenzia delle Entrate spiazzata, con il cash sale il sommerso. Pensate che appena un anno fa Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, diceva: sono maturi i tempi per l'utilizzo della moneta elettronica. Incrementarla ha un impatto positivo sulla riduzione del sommerso e sull'evasione fiscale, oltre che sul costo di gestione del contante. Eppure il governo triplicherà la soglia per il cash dal 2016. In un paese in cui l'82% delle transazioni e il 67% del loro valore si muove ancora sulla carta frusciante e in cui l'alfabetizzazione digitale e finanziaria stenta, c'è resistenza, diceva la Orlandi ancora qualche tempo fa. Negli ultimi anni non abbiamo incrementato i sistemi di pagamento elettronico. Perché allora questa decisione del governo? Perché rinunciare a una delle chiavi per la lotta all'evasione? Beh, Renzi dice, servirà a dare una spinta ai consumi. E dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate c'è questa reazione: spiazzati. Questo almeno racconta Repubblica. Sta di fatto che il tema è molto dibattuto e trova grande sviluppo oggi sui giornali. Come prima di parlare del Senato, lo vedremo più tardi, secondo me una legge che è passata alla Camera, dunque ora arriverà al Senato dove si preannuncia già battaglia, ma che interessa centinaia di migliaia di cittadini che vivono in Italia e che un domani si potranno chiamare italiani in maniera più facile, è la legge sullo cosiddetto ius soli. Ius, o meglio sarebbe dire ius soli temperato, perché lo ius soli, cioè il diritto a considerarsi di un paese nel momento in cui si nasce in quel paese, quello puro c'è negli Stati Uniti, dove sapete se uno nasce lì, anche se lì da un giorno, ha diritto alla cittadinanza americana. Qui invece in Italia hanno votato alla Camera lo ius soli temperato. Tra le proteste della Lega, l'astensione del Movimento 5 Stelle, le proteste anche della destra, di Forza Italia, il voto contro di Fratelli d'Italia, racconta Flavia Amabile sulla Stampa, ma c'è ovunque un articolo dedicato a questo tema. Pagina 6 della Stampa: ha superato il primo ostacolo la riforma delle regole per acquistare la cittadinanza italiana. Introduce questo disegno di legge lo ius soli. Il via libera alla Camera con 310 sì, 66 no, 83 astenuti. Ora passa al Senato. Contrari in modo molto netto Lega, che ha urlato vergogna in aula, dicendo la cittadinanza non si regala, e in modo meno plateale hanno votato contro Fratelli d'Italia e una parte di Forza Italia, cioè l'astensione invece del Movimento 5 Stelle. Il concetto è che a 18 anni, quando si è nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno con il permesso di soggiorno lungo, si ha diritto a essere considerati cittadini italiani. Questo è lo ius soli temperato. La nuova legge riguarda solo i minori, ma non gli adulti. Per loro la legge per la cittadinanza è rimasta identica per gli adulti. In ogni caso c'è una rivoluzione: cittadino, chi nasce o studia in Italia. Questo è il concetto, non in maniera automatica chi nasce in Italia, ma comunque è una velocizzazione della richiesta di cittadinanza per chi sta in Italia da un po', la cosiddetta generazione Balotelli, come viene definita da pagina 4 del giornale. Cioè generazione di nati e cresciuti nel nostro paese, ma che ora fanno più fatica a ottenere la cittadinanza, e invece ora la cittadinanza, se passa questa legge al Senato, sarà più semplice. Va bene, ci sono alcune cose però in tutto questo che mi hanno fatto un pochino arrabbiare. Una è questa: la Regione Puglia, lo racconta il Messaggero a pagina 11, ha approvato una legge regionale per la quale ora si potranno assumere in consiglio i parenti come portaborse. Il Consiglio regionale della Puglia, racconta Antonio Calitri sul Messaggero, tiene famiglia e con una maggioranza schiacciante di tutti i gruppi a esclusione del Movimento 5 Stelle approva la legge per assumere i portaborse anche tra parenti stretti, affini, ex assessori ed ex consiglieri. Una proposta di legge andata in aula, votata a larghissima maggioranza. Con la nuova legge ogni consigliere potrà assumere un assistente su base fiduciaria e attraverso il capogruppo, disponendo di un budget di 52.000 euro lordi, pari al costo di personale di categoria D6. E insomma, si tiene famiglia. Tra l'altro tutti hanno fatto notare che la compagna del governatore Emiliano, già addetta stampa, è stata nominata direttrice della testata di comunicazione e insomma in Puglia si potrà assumere un assistente tra parenti o affini. Ma non è questo l'articolo che mi ha fatto più arrabbiare. L'articolo che mi ha fatto più arrabbiare è questo, è l'articolo che mi fa tenere le mani sul volante, a me sul microfono come al solito, a voi se siete in macchina le mani sul volante. E lo hanno raccontato, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, lo raccontano pochi giornali, ma secondo me è una vergogna assoluta quello che accadrà oggi al Senato. E cioè, ne abbiamo già parlato in passato, i partiti non hanno i bilanci regolarmente controllati dall'organo preposto. Se non hai i bilanci vidimati, in teoria non dovresti avere accesso al finanziamento pubblico, ma è stata fatta una sanatoria che verrà e che è stata già approvata alla Camera e che oggi ha bisogno di un passaggio veloce, velocissimo al Senato. State sicuri che saranno tutti d'accordo? Tranne, vabbè, quelli del Movimento 5 Stelle, perché loro i soldi del finanziamento pubblico non li prendono. Oggi il DDL Boccadutri, chiamato così dall'onorevole che l'ha portato alla Camera, approda al Senato, è una mini sanatoria. È un insieme di commi, emendamenti, subarticoli, rimandi, una questione tecnica complicatissima, che però tradotta in italiano vuol dire così. È vero, noi partiti non abbiamo i bilanci vidimati e controllati, non abbiamo i bilanci con la firma dell'organo preposto che deve dire ok, il bilancio è a posto. Però grazie a questa legge, il finanziamento pubblico di quest'anno ce lo prendiamo lo stesso. È una piccola sanatoria. Eccolo qui su Libero, i partiti si spartiscono 45 milioni pubblici in tempi da record. Oh, scrive Antonio Castro, per i 55.000 nuovi esodati c'è sempre tempo, per trovare i miliardi che servono per le coperture. Abbiate fede, dai, li troveremo. Per i partiti è arrivata questa legge sanatoria in un attimo. Zac. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Hello, this is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Grande, è tornato. Grazie George Clooney per questo endorsement. Grazie davvero e ringraziamo. Anch'io vedo tutti i tuoi film e seguo le tue pubblicità. Grazie, grazie davvero George. Sei grande. Va bene, allora, cari ascoltatori, le due notizie politiche del giorno sono certamente l'approvazione della riforma sul Senato e il terremoto in Lombardia. Vogliamo partire da qui. Il terremoto in Lombardia con l'arresto del vicepresidente Mario Mantovani, arrestato dopo un anno dalla richiesta dei PM, peraltro, quindi in maniera molto distante dalla richiesta del PM. È l'arresto più lento che ci sia, come racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, pagina 2, oltre un anno tra le richieste del PM e la firma ieri del GIP. Comunque, con l'arresto più lento finisce per cadere, manco a farlo apposta, proprio nella mattina in cui Mario Mantovani avrebbe dovuto rappresentare alla giornata della trasparenza la giunta regionale. Tra l'altro viene definito da Luigi Ferrarella l'eptapolitico perché ha 7 cariche, vicepresidente della regione Lombardia, ex assessore alla sanità, senatore, ex coordinatore lombardo del PDL di Berlusconi, già sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, ex europarlamentare, 3 volte sindaco di Arconate. Alcune cariche ovviamente non le ha più, comunque l'epta politico. Accanto all'indagine per turbativa d'asta, pure pure sull'assessore regionale leghista all'economia Massimo Garavaglia e sul direttore generale dell'ASL Milano 1 Giorgio Scivoletto coincidono gli arresti di Mantovani per ipotesi di concussione, corruzione, turbativa d'asta. Arrestato anche il suo collaboratore Giacomo Di Capua, già alla ribalta nel 2011 per i manifesti elettorali via le BR dalle procure, e l'ingegnere del provveditoriato regionale opere pubbliche Angelo Bianchi. Che cosa racconta il Corriere con Giuseppe Guastella? Racconta di questo potere esercitato nel sottobosco della politica lombarda attraverso pressioni, raccomandazioni, connivenze, complicità. Dall'inchiesta che ha portato in carcere per corruzione, concussione e turbativa d'asta il vicepresidente della regione Lombardia emerge l'uso di quello stesso potere per fini talmente privati da far pagare all'erario l'architetto che ha diretto i lavori di ristrutturazione in molti immobili di famiglia, come la splendida settecentesca Villa Clerici di Rovellasca, evidentemente fatta pagare a noi. Questa è l'accusa dei magistrati. Viene definito il faraone delle case di cura lombarde. Mario Mantovani era il suo business, le case di cura. Tra l'altro il Corriere della Sera fa sapere che proprio la sua ascesa politica è coincisa con l'essersi preso in cura, la mamma di Silvio Berlusconi, Rosa, tanto che quando morì lui, sindaco di Arconate, proclamò il lutto cittadino ad Arconate quando morì la mamma di Berlusconi. Reagisce Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere, dice: sono stanco e incazzato. Di cosa ha colpa il nostro assessore Garavaglia? Di segnalazione. Allora mi autodenuncio, sono colpevole anch'io, al posto di Garavaglia lo avrei fatto anch'io, anzi l'ho fatto da consigliere comunale. Nel corso degli anni ho segnalato decine di associazioni benefiche e non mi ravvedo, lo rifarò. Mi faccia il piacere, dice al giornalista Marco Cremonesi che lo intervista. Massimo Garavaglia è il migliore tra noi, una persona che tutti conoscono come specchiata. Questa è un'indagine pazzesca su uno dei leghisti più seri e onesti che io conosca. Guardi, giusto ieri, lunedì, ero stato facile profeta. L'ho detto al Consiglio federale della Lega. Ragazzi, visto che siamo in crescita, prepariamoci. Proveranno a fermarci in tutti i modi e questa inchiesta segna un primato, la prima indagine al mondo in cui si accusa una persona di aver cercato di dare una mano a un'associazione benefica, peraltro senza riuscirci. Così Salvini. Comunque, è un complotto dunque? Beh, nel passato ci hanno già provato, si ricorda, per 2 anni hanno cercato dei soldi che avrebbero dato a degli indiani per degli elicotteri. Poi l'inchiesta, quella su Finmeccanica, è stata archiviata perché non c'erano soldi, non c'erano indiani, non c'erano elicotteri. A qualcuno dà fastidio la sanità lombarda. Così dunque si difende Salvini dicendo le manette facili. E questa è un po' l'accusa che viene anche da Libero. Tregua Expo finita, torna manetta facile, e anche Silvio Berlusconi che dice: sono stupito, conosciamo Mario Mantovani come una persona totalmente onesta. E invece Brunetta ha attaccato molto il giustizialismo, ha scritto su Twitter. Comunque ne parleremo con Gerardo Colombo alle 8:15, non tanto dell'inchiesta in sé, non è ovviamente più sua competenza, ma della torta, per esempio, della sanità. Il Giorno racconta una torta da 17 miliardi di euro solo in Lombardia. E capite che laddove c'è una torta così succosa e golosa, forse qualcuno prova a prendere una bella fetta. Comunque l'altra notizia del giorno certamente è l'approvazione della riforma del Senato. Non c'è più il Senato, non ci sarà più il Senato se passerà anche lo scoglio del referendum popolare dell'anno prossimo come lo conosciamo. Maria Elena Boschi esulta, viene intervistata da Repubblica, da Goffredo De Marchis a pagina 3, e tra l'altro dice: ad agosto leggevo i giornali e tutti dicevano che non c'erano i numeri per la riforma. Ero sicura di sì, ma confesso che qualche volta anch'io ho dubitato. Ma ora, con buona pace di chi dubitava, la legge passa con 179 voti. Il PD adesso è compatto, è la riforma degli italiani. Ora proviamo a unire comunali al referendum. Questo è il titolo dell'intervista a Maria Elena Boschi, pagina 3 di Repubblica. Per me la destra ha perso una gigantesca occasione, si rivolge soprattutto a Forza Italia. Noi siamo andati avanti nell'interesse del paese, non potevamo aspettare Berlusconi. Maria Elena Boschi tra l'altro firma anche l'editoriale di prima pagina dell'Unità, dicendo in pratica che questa riforma è una riforma che permetterà anche di abolire le province. Ma come? Allora non sono pazzo. Non sono proprio pazzo. Le province esistono. Maria Elena Boschi, prima pagina dell'Unità. Questa riforma significa meno poteri alle regioni, meno enti con l'abolizione del CNEL e delle province. Allora non sono proprio pazzo del tutto. Le province esistono ancora. È la 128esima settimana decisiva di questa legislatura per l'abolizione delle province. Comunque, se volete capire le nuove regole del palazzo, come sarà il nuovo Senato, gli schemi ci sono un po' ovunque, anche il Sole 24 Ore lo spiega. C'è stato poi un grande scontro verbale tra Berlusconi e l'ex Presidente della Repubblica Napolitano. Verbale e scritto, perché Berlusconi in pratica ha accusato Napolitano di essere un golpista. Cioè, io sono stato condannato e cosa dovremmo fare di Napolitano che nel 2011 ha fatto un golpe contro di me? Napolitano non l'ha presa per nulla bene, ha scritto una lettera inviata al capogruppo al Senato Paolo Romani, capogruppo di Forza Italia. In questa lettera Napolitano scrive così: caro Romani, ho letto dispacci di agenzia sulla vostra assemblea, ho letto attribuite a Berlusconi parole ignobili che dovrebbero indurmi a querelarlo se non ritenessi da evitare di affidare alla magistratura giudizi storico-politici che non spettano ai giudici. Berlusconi, ha scritto ancora l'ex capo dello Stato, meriterebbe una querela, ma mi trattiene dal fare questo un sentimento di pietà per una persona vittima ormai delle sue patologiche ossessioni. Insomma, Napolitano e Berlusconi, il duello shock. Anche Mario Aiello sul Messaggero a pagina 2 racconta come la Camera Alta, cioè il Senato, tramonti tra i veleni dei protagonisti. A proposito non di querele, a proposito non di ossessioni, a proposito magari di Senato e articoli, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, bravo, bravo. Grazie, grazie, grazie. Posizione che ti schiva, almeno una delle molte querele che invece io ti posso minacciare continuamente. Sei in lite con la Fondazione Fiera, tu Alessandro Milan. Ah, no, no. No, è un altro, no. Milan, ti suggerisco. Ah, è l'altro Milan. È un Milan un po' più grande, ma un po' meno importante. Leggo sul Sole 24 Ore che c'è adesso un possibile ricorso all'arbitrato sulla vicenda dello stadio, che non, come non dire, lo facciamo non più al Portello? Ma, niente. Così leggo sul Sole 24 Ore, poi ci sarà insomma da discutere perché forse ci sono dei danni da pagare. Ah. Vediamo, comunque leggi sul Sole 24 Ore nelle pagine di Imprese e Territori, tra l'altro lì potrai anche apprendere che il governo ha deciso di entrare nella gestione del dopo Expo. Cioè ci sarà un impegno, sì, del governo per la gestione del dopo Expo, ma ti spieghiamo tutto, ti spiega tutto Sara Monaci, quindi è inutile che io faccia perdere tempo agli ascoltatori. Ti voglio invece segnalare, mm-hmm, va bene l'IPO, posso dire IPO, tanto tu oramai dirlo, parli con George Clooney, figurati, sì, te, io non posso dire IPO. Effettivamente. Certo che passare da George Clooney a Mauro Meazza, povero te. Vabbè. Provi invidia. Pazienza. Ti porta a cena la sera con George. Vabbè, silicet parva, dicevano i latini, ma lasciamo stare. Volevo dirti che l'IPO Poste si è mosso bene. All'inizio sarebbe già coperta la quota, quella riservata agli investitori istituzionali, quindi non le persone come te con i due urini, le persone come me con anche meno dei due urini, ma investitori istituzionali che avrebbero già effettuato prenotazioni in forma consistente. Ti voglio anche dire, siamo noni per ricchezza nel mondo, per ricchezza media, sì, nel mondo. E dov'è sta ricchezza? L'ho letto sul Sole 24 Ore di oggi, sembra, vedi quante cose ti imparo leggendo il Sole 24 Ore, caro Milan. Inoltre ti voglio dire che, molto rapidamente, ci sarà un codice deontologico per i cacciatori di teste. Non sono dei selvaggi, sono quei signori che si occupano, sì, appunto di piazzare, di cercare nuovi posti di lavoro. Piazzare non è bello, eh. Vabbè, no, di cercare nuovi posti di lavoro, nuove opportunità. Di sti tempi stai attento, piazzare come te, persone come te o come George Clooney. E poi appunto ci sarà questo codice deontologico e poi naturalmente oggi Maurizio Caprino ritorna sulla vicenda del divieto di fumo, sì, in auto, sì, e ti spiega da par suo nelle pagine di Norme e Tributi, ti spiega quali potrebbero essere le sanzioni e come si potrebbe anche fare il ricorso su questa norma che, voglio precisare, non è ancora in vigore, lo dico a beneficio anche dei fumatori. Sì, non è che fumate adesso con i bambini in macchina, se potete farlo comunque, indipendentemente dalla legge, è un buon gesto. No, diciamo, invito tutti i colleghi fumatori a non fumare con i bambini in macchina e con le donne in stato di gravidanza, ma dico anche, ci mancherebbe altro, appunto, che ci volesse la legge per dircelo. Va bene. Guarda, c'è un po' di pasticcio sulla trasmissione dei dati sanitari per il 7.30 precompilato l'anno prossimo, ma ne parliamo un'altra volta per stamattina. Salutami George e naturalmente, come al solito, traffico! Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Aggiustiamo gli ombrelli. Quanta nostalgia tutte le volte. Torna l'infanzia. Se la cucina fa fumo, che noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Va bene. Grazie, caro ascoltatore. Allora, le unioni civili invece verranno incardinate in aula al Senato. Mi piace questo termine tecnico, incardinate, cioè, non so, calendarizzate, come volete dirlo. Insomma, vengono messe lì e verranno discusse. La prima volta che succede in Italia dopo tanto parlare. Però attenzione, intanto verranno incardinate stamattina al Senato, poi bisogna fare questa parentesi in cui bisogna approvare entro questa sera questa sanatoria, vergogna, sanatoria, perché i partiti si possono prendere, pur non avendo i bilanci certificati, i soldi del finanziamento pubblico. Il cosiddetto DDL Boccadutri. Quindi succederà questo: incardinamento delle unioni civili, poi ci sarà il DDL Boccadutri che va al Senato, poi in realtà arriverà domani, c'è Ban Ki-moon, credo, segretario generale dell'ONU, poi la legge di stabilità e che le unioni civili, è interessante come Carlo Lania sul manifesto racconti a pagina 3 che in realtà viene incardinato al Senato oggi il disegno di legge Cirinnà, ma non si discute, nel senso che appunto è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo che verrà incardinato, poi c'è il DL Boccadutri, poi c'è la visita del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, poi martedì si prenderà nuovamente l'avvio con l'esame della legge di stabilità che nel frattempo il governo licenzierà giovedì. E dunque dei diritti delle coppie omosessuali, scrive il manifesto, si tornerà a parlare a gennaio del 2016, se va bene, c'è chi spera di poter sfruttare la finestra di qualche giorno che potrebbe aprirsi a novembre. Ma in realtà delle unioni civili sentirete un gran dibattito, ma i tempi tecnici sono questi: messa lì, incardinata al Senato e poi congelata quantomeno per un mesetto, se non fino a gennaio 2016. Intanto questo articolo l'ho letto su un po' ovunque, sono questi retroscena con parole che vengono attribuite a Matteo Renzi che finiscono sui giornali. Attenzione, cari romani, attenzione, perché Renzi ha in mente, questo raccontano sia Corriere, Repubblica, tutti i retroscenisti, di fare per Roma un dream team. Oh yeah, arriva il dream team. Ma chi è il Dream Team? Cioè, una persona per bene e basta non è sufficiente. No, arriva il Dream Team. Questo almeno per Roma, cioè i prefetti, poi i commissari, i subcommissari. Per il Corriere della Sera, in questo Dream Team ci sarà anche il ritorno sicuro di Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, ex ministro, ex vicepresidente del Consiglio. Così almeno giura Maria Teresa Meli a pagina 13. Il Dream Team. A proposito, sulle spese, la finanza è andata in Campidoglio per acquisire tutte le spese di Ignazio Marino, ma il Fatto Quotidiano persiste in questa campagna a dire: e Renzi, tu quando eri sindaco, presidente della provincia, i tuoi conti al ristorante, chi li ha pagati? Perché Renzi continua a dire tutto online, ieri è andato a RTL a dire... questa vicenda mi ha fatto arrabbiare, ma il tempo sarà galantuomo. Oggi però ancora Davide Vecchia, pagina 2 del Fatto Quotidiano, pubblica: eccole qui le fatture della trattoria Dalino del ristoratore Lino Amantini, fatture registrate da Palazzo Vecchio, pagate direttamente con bonifico, e sono le conferme dell'intervista del ristoratore che poi ha smentito, che però al Fatto aveva detto mandavo le fatture direttamente in comune, tutte pubblicate. Il Fatto le pubblica con magna magna a spese nostre. Ancora ecco le fatture che Renzi non ha mostrato. Così Palazzo Vecchio, dunque il comune di Firenze, ha pagato pranzi e cene dell'allora sindaco, tra parentesi, sotto indagine. Il Fatto dunque continua. Ci sono due notizie di cronaca che vi voglio dire velocemente. La prima è questa ed è sacrosanta: allarme nelle scuole per i pochi vaccini, o meglio il calo dei vaccini. Sono sempre più i genitori che non vaccinano i loro figli, spesso vittime di disinformazione o di pregiudizi. Allora il ministero, fa sapere Repubblica, pagina 27, è pronta a negare l'iscrizione a scuola dei bambini che si rifiutano di fare i vaccini. Eccolo qua: allarme nelle scuole per il calo dei vaccini, il ministro pronti a negare le iscrizioni ai bambini. Questo lo trovate su Repubblica, pagina 27, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. Vabbè, siamo in chiusura d'arrivo, non posso leggere nient'altro, non posso leggere la straordinaria pagina sull'allenatore dell'Arezzo, Ezio Capuano, che abbiamo fatto sentire prima, uno che urla ai giocatori i propri giocatori che perdono, siete delle merde umane. L'abbiamo fatto sentire. Ma la carta costa va a Vera Schiavazzi su Repubblica, un'intera pagina su yoga, corsa e startup, l'alba e delle donne. Tutti coloro che si svegliano all'alba per andare a correre. Perché mi innervosisce questa cosa? Perché? Ma chi se ne frega!